onesta că lucive manum luce, signe caninna mia stace malata, s'affaccia la sorella me lo dice, nella tua morte sei atterrata, chi agneva sempre che dormeva sola, ma dorme culi morte accompagnata. Ma dorme culli morte accompagnata. Addio fanesta resta tan serrata, caninna mia mo non se può affacciare, io ch'io non passa raggio da sta strada, va callo campo santa passiare, ci parru chiano mio tienenci cura, una lampa sempre tienenci allumata. Una lampa sempre tienece allumata.